Secondo giorno di riunioni a Villa Pamphili e oggi tocca a Colao e ai sindacati. Ma le questioni in queste ore diventano tutte politiche. A dominare la scena ci sono le dichiarazioni di Di Battista sulla necessità di un congresso nei 5 Stelle, la replica di Grillo che paragona l'idea a quelle dei terrapiattisti. Insomma, c'è tutta una guerra nel movimento sul ruolo di Giuseppe Conte. Il tutto mentre, ci si scusi se vogliamo un po' più basso, ci sono ancora almeno 600.000 persone che attendono l'erogazione della cassa integrazione. Il virus come procede intanto? Ancora decine di casi in Lombardia, mentre 8 regioni sono a contagi zero. Il focolaio da San Raffaele a Roma si allarga, mentre la Cina chiude 10 quartieri di Pechino dopo la scoperta di 36 casi. Di cosa si discute d'altro? Se ne fatto per tutto il fine settimana. La statua di Indro Montanelli imbrattata a Milano, tra chi ne chiede l'abbattimento e chi la difende. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. To do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. So love me. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, è lunedì 15 giugno, sono le 6:32 minuti e 30 secondi. Ci si sveglia non benissimo oggi, eh? Io ve lo dico, già è lunedì e quindi già di principio si parte male. E poi... Ma mi devo ritrovare quasi tutte le aperture dei giornali sulla battaglia nel Movimento 5 Stelle, eh? Su questo? Di questo dobbiamo discutere? Che poi, per carità, anche questa politica è importante perché ne va del ruolo del governo, cioè bisogna vedere che cosa succede, che se questo governo cambia, non cambia, cosa succede all'interno del movimento, perché poi da questo dipendono gli equilibri del governo e l'azione del governo stesso. E però, Madonna Santa, mi sembra così fuori dalla realtà tutto questo, eh. Magari sbaglio io, ditemi anche la vostra se volete, 349-238-6666. Per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Fatevi sentire, voi che siete la nostra task force. Oggi Vittorio Colao agli Stati Generali racconterà i dettagli di questo rapporto che ha presentato per il governo, anche se il governo ne ha già pronto un altro. Riferisce il quotidiano La Repubblica un piano in 55 voci. Wow. Oh, la vera task force siete voi naturalmente, ma c'è la task force che manda avanti la baracca. Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, il resto della redazione Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli e i nostri autori Francesco Ciaraffo e Margherita Aina. E poi dite anche la vostra su Montanelli, così lo stanno facendo tutti, praticamente sui social non si parla di altro, non si parla di altro. Io leggo solo status su Facebook, su Twitter, sulla statua di Montanelli imbrattata. Anche qua, ragazzi, statua che andrebbe fatta a quest'uomo, c'è la foto, la trovate su tutti i giornali, è una foto bellissima, eh? Sono le proteste a Londra di Black Lives Matter e c'è questo attivista afro-britannico, insomma, che porta via a spalla, è un personal trainer, porta via a spalla un estremista di destra che rischiava di essere picchiato durante le proteste. Beh, una scena stupenda. Ecco una bella statua, per esempio. Allora, gli Stati Generali. ha fatto discutere tantissimo questa dichiarazione di Giuseppe Conte, il quale dice: guardate che sono gli stati del gruppo di Visegrad, tradizionalmente vicini, cioè vicini alla destra, vicini alla destra di Salvini, alla destra di Giorgia Meloni, eccetera eccetera, a bloccare gli accordi in Europa. Quindi faccio un appello all'opposizione: fa una cortesia, con Orbán parlaci tu. Non lo dice proprio così, però alcuni paesi di Visegrad anche sono usciti pubblicamente e contestano queste soluzioni. Quindi siccome alcuni esponenti, alcune forze dell'opposizione sono molto legate a queste forze politiche, a questi governi di Visegrad, io chiedo loro di lavorare per darci una mano, perché ovviamente dobbiamo ancora completare questo processo. Quindi nell'interesse nazionale, l'interesse della comunità italiana, vi prego, dateci una mano e io vi riconoscerò pubblicamente l'aiuto che ci darete. Non è male, pare che Salvini si sia arrabbiato per questa cosa, però insomma, come dargli torto? Se i rapporti ce l'hai tu, fa una cortesia, intercedi per il bene dell'Italia. Bisogna fare in fretta, dice il presidente del Parlamento europeo Sassoli. Caro presidente Conte, bisogna naturalmente fare in fretta ma bene. Tutti gli indicatori ci riferiscono che la crisi colpirà duramente. Servono riforme strutturali, interventi di sostegno diretto alle persone. Nei giorni scorsi la Spagna ha annunciato il reddito minimo vitale per sostenere il diritto alla vita dei suoi cittadini più poveri. Semplificare, garantire efficienza nel pubblico e nel privato, agire con tempestività. Tempo di disegnare la rinascita. Qua ricorre un tema che attraversa un po' tutta la discussione, ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, il tema dell'occasione. Allora, cosa succede? Sono caduti i vincoli del patto di stabilità, sono caduti alcuni vincoli di mercato perché la BCE sta comprando a man bassa. Abbiamo la possibilità di spendere, è l'occasione effettivamente per ridisegnare l'Italia questa. E lo ribadisce il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, sentiamo. Ora è il tempo di contrastare la crisi e disegnare la rinascita, e questo chiama in causa la politica, ossia la responsabilità di scegliere. E credo sia molto importante e positivo che il governo italiano abbia deciso di avviare questa discussione sul disegno del futuro da una riflessione europea, internazionale, ma soprattutto inizialmente europea. Caro Francesco Specchia, come stai? Firma di Libero, direttore di Pop Economy. Buongiorno Francesco. Buongiorno, ciao. Bene, abbastanza bene. Eccoci qua, bene, sono contento. Ascolta, allora, iniziano questi stati generali, sono iniziati ieri, oggi sarà il piano Colao, si sentiranno i sindacati, saranno 10 giorni di confronto, di consultazione, sui quali molti hanno espresso scetticismo, no? Dall'altra parte è anche vero che comunque raccogliere le idee può essere salutare, se pensiamo che per esempio i francesi hanno deciso di rimandare il piano di rilancio a settembre, ossia mi prendo tutto il tempo per riflettere, no? Può anche starci, che dici? Sì, sicuramente, cioè, il tempo per riflettere c'è, purché non sia un tempo dilatato, prostiano, cioè il concetto fondamentale è fare presto, ragione Sassoli, che tra l'altro in precedenti interviste aveva già affermato che tutta questa situazione ci sta producendo dei danni immani, non è che ha scoperto l'acqua calda, però 100 miliardi ogni mese di soldi persi solo in Italia sono una certa cifra. Quindi sicuramente gli stati generali servono perché fanno da collettore alle grandi menti, e soprattutto sono una passerella, parliamoci chiaro, per molti politici, compreso il nostro Presidente del Consiglio. È anche vero che ci sono stati interventi molto formativi, perché quando la von der Leyen dice che per la prima volta la Commissione europea mette mano ai soldi dei nostri figli e quindi noi dobbiamo fare un servizio ai nostri figli, cioè creare da zero un futuro, ecco, dice ed è una sacrosanta verità. La stessa cosa dice Gentiloni quando nella seconda parte del discorso che avete citato sottolinea il fatto che questo tipo di accordo non sono soldi buttati all'elicottero, non è un helicopter money, ma sono accordi che prevedono dei paletti precisi, taglio della spesa, riforme strutturali, contenimento del nostro debito, cioè non è che ci danno i soldi così, quindi bisogna saper certo. spendere 100 miliardi fino al 2022 con grano sale, cioè, capendo dove andare a tagliare e che cosa fare. Ci sono delle tabelle di marcia precise, ci sono dei patti chiari che io credo difficilmente riusciremo, personalmente sono molto pessimista, a rispettare, perché se, come hai annunciato tu prima, ci sono ancora un sacco di italiani, te lo dico con ragion veduta perché i miei ancora devono riceverla, che non hanno ottenuto la cassa integrazione, dobbiamo anche cominciare a preoccuparci. Cioè, poi manca il famoso, ieri mi dicono che manca il famoso documento SR41, che nessuno sapeva che cosa fosse, mandato all'INPS, che mi ricorda quel film di Asterix contro la burocrazia francese, che cercava di lasciare passare a 38 e non riusciva ad ottenere alcunché girellando per i ministeri. È la stessa identica cosa. O per gli amanti di Bud Spencer, Banana Joe, quando fa avanti e indietro tra due sportelli. Poi prende delle decisioni più rustiche, un po' più forti Bud Spencer in quel caso. Sì, però insomma, ecco, sarebbe da farlo anche noi. Il concetto è questo. Sì, ci sono alcune cose appunto sulle quali alla fine noi lo sappiamo perfettamente che i problemi italiani sono quelli, cioè c'è un problema di burocrazia, c'è un problema di messa a terra dei provvedimenti, cioè quando vari un provvedimento il procedimento non è finito, anzi è appena iniziato, ci voglio. Poi aggiungerei Simone un'altra cosa, permettimi, che quella è la bizzarria di certi economisti cosiddetti sovranisti monetari che a un certo punto per una vita hanno detto non ci dobbiamo fidare dall'Europa, eccetera, eccetera, quando l'Europa ti dice ti diamo i soldi e freghiamoci tranquillamente, facciamo più debito possibile che tanto paga l'Europa, che è una roba, che è una follia, è al di fuori di qualsiasi principio di realtà, no? Quindi ecco, abbiamo anche tutta una serie di situazioni bizzarre che si vanno ovviamente a coagulare in un pezzo di teatro dell'assurdo, secondo me, ma comunque siamo abituati. Allora, ha un po' del teatro dell'assurdo, devo dire la verità, anche tutto quello che stiamo vedendo intorno al Movimento 5 Stelle, che per carità è una battaglia di potere, ma in una fase come questa mi lascia estremamente perplesso. Sentiamoci un po' di Di Battista, innanzitutto sull'ipotesi di un partito di Monti. Io non sto facendo paragoni, però ricordo pure i sondaggi che venivano fatti su Monti e non sto paragonando. Io i sondaggi, la sondaggiocrazia che è diventata questa Repubblica, io non li commento. Va bene, allora... Partito di Conte, volevo dire, ovviamente, però insomma, io i paragoni non li faccio, però vi ricordo che fine ha fatto Monti quando ha deciso di fare un suo partito. E poi Conte presenti una sua linea al congresso del Movimento. Se il Presidente del Consiglio volesse diventare, diciamo, capo politico del Movimento, portare una linea, si deve iscrivere al Movimento 5 Stelle e a un prossimo congresso, chiamiamolo anche così, stati generali stanno facendo tutto. Ecco. Secondo me il Movimento 5 Stelle in questo momento deve riuscire a far, organizzare un congresso, chiamiamolo congresso, così, anche se è una vecchia parola. Il congresso. Ovviamente Grillo replica, dice, ma sì, siete come i terrapiattisti, come il generale Pappalardo, Di Battista che dice una serie di cose durante questa intervista un po' così. Prendete quello che dice sul caso Regeni, che ci stiamo a fare nella NATO se non riusciamo a coinvolgere i partner della NATO, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, a fare sponda e a far sì che appunto possano saltare delle teste, si possa fare luce nel governo egiziano rispetto a questo? Allora, quello che io dico, non conoscerò la realpolitik. Ma la NATO fare questo? Fino a che... Con Lucia Annunziata, Francesco, Lucia Annunziata che si sente in sottofondo che dice: ma la NATO c'entra, ma che vuol dire? A me fa molto piacere che Di Battista ogni tanto va in televisione perché arriva l'audience, però il problema grosso è che chi cosa mi rappresenta, che cosa fa, che cosa dice. E poi il problema grosso è che molto spesso in tutta questa sua apparizione surreale spesso dice anche delle cose molto più sensate di membri del suo governo, e che mi preoccupa ancora di più, perché quando d'altra parte il concetto di di Conte, del ponte, non so, sul MES, la sfiducia alla UE, queste cose qui, il ponte sullo stretto, erano il no al ponte sullo stretto. Adesso è stato fuori anche il discorso del ponte sullo stretto, che lui ieri ha citato, che nessuno aveva tirato fuori, ma l'ha tirato fuori lui. Cioè ci sono alcune cose, alcune tesi consolidate che comunque facevano parte di un certo repertorio retorico, ma anche politico, dei 5 Stelle, che poi sono state seppellite sotto una realpolitik che è peggio dei progetti di fantasia, perché fondamentalmente sappiamo benissimo che c'è un partito che è dilaniato, in cui c'è Grillo che viene portato, tirato per la giacchetta a insultare Di Battista che lo rende Grillo non la soluzione ma parte del problema, e che ha appoggiato Di Battista a sua volta da Casaleggio. Che cosa c'entra Casaleggio? E in tutto questo c'è Di Maio che sta a guardare e cerca di fare da paciere. Crimi è da una parte, non si sa, è andato a prendersi un caffè, ma quello è un altro discorso. Il tutto mentre ci prepariamo ad affrontare la crisi economica che di fatto stiamo già affrontando. Cioè, è assurdo parlare di tutto questo noi stessi, veramente è assurdo, quando ci abbiamo davanti un disastro e dobbiamo spendere 2.500 miliardi per riattivare tutto. Sì. A proposito di ponti, beh, non posso rinunciare, no, prima del traffico, a farvelo sentire il generale Pappalardo a proposito di ponti. Altro che ponte sullo stretto, qua ci sono idee ancora più forti, vai! La Sicilia deve essere il punto centrale del Mediterraneo. Stabiliremo un contatto diretto, addirittura sto proponendo la costruzione di un ponte fra la Mazzara del Vallo e Tunisi, perché la Sicilia sia collegata con l'Africa, perché se vogliono passare, andare in Africa, devono passare dalla Sicilia. Vabbè, fantastico. Mazzara del Vallo, Tunisi, traffico. Le tecnologie Nissan sono pensate per darti più sicurezza e meno stress. E ora, anche le nostre offerte. Con Nissan Together hai assistenza stradale gratuita e le prime 4 rate a solo 1 euro al mese. Oggi, Micra Accenta Benzina tua a 179 euro al mese con finanziamento Together e permuta o rotamazione. TAN 5,99, TAG 5,06 anziché 8,03, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria per una consulenza personalizzata. Mattino. Tra l'altro mi scrive un ascoltatore, vuole farlo a campata unica. Mazzara del Vallo, Tunisi. Vabbè, andiamo a cose serie invece. Molto stiamo discutendo in questi giorni, come ovvio che sia, vista anche l'inchiesta di quello che è successo in Valseriana, quello che è successo a Nembro, Alzano e non solo. Abbiamo avuto ospite venerdì il sindaco di Nembro per farci raccontare un po', insomma, come sono andate le cose, come vede quest'inchiesta. Dall'altra parte c'è la situazione dei contagi sul territorio, insomma, come stanno effettivamente le cose, come sono andate le cose. Ebbene, a San Giovanni Bianco, appunto provincia di Bergamo, 4.800 abitanti, è stata lanciata un'iniziativa per un test sierologico a tutti gli abitanti possibilmente. E hanno aderito, buongiorno al sindaco Marco Milesi, buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Hanno aderito in oltre 1.400, che cosa è emerso? Sì, abbiamo voluto lanciare con l'amministrazione comunale questo test sierologico gratuito a tutta la popolazione, accompagnato poi anche da tampone per poter, in caso di positività, isolare i positivi anche al tampone. E da questa analisi a cui si sono sottoposti volontariamente circa il 50% della popolazione dei maggiorenni, è emerso che il 39% è risultato positivo al test sierologico, quindi ha sviluppato gli anticorpi IgG. Il 39%, una dimensione enorme, cioè praticamente la metà della popolazione, poco meno della metà della popolazione. Esatto, poco meno della popolazione. O poco più di un terzo, anche, a seconda di come la volete vedere, naturalmente. Sono ovvio. Prego. Io lo vedo poco meno della metà, anche perché comunque è un dato che ci aspettavamo, visto il numero di decessi che abbiamo avuto nel mese di marzo 2020, praticamente nella nostra comunità, ma come in tutte le comunità della Valle Brembana, circa l'1% della popolazione è deceduto. E nel solo mese di marzo 2020 abbiamo avuto più decessi dell'intero 2018 o dell'intero 2019. Sì. Sì, i dati ho visto, a marzo dell'anno scorso morirono 2 persone, a marzo di quest'anno 47 decessi. Questa è per dare l'idea, il paragone, no, agli ascoltatori. Naturalmente, ripeto, parliamo di una popolazione di 4.800 abitanti, quindi il numero assoluto piccolo, però vi dà la misura, no, di quante vittime ci sono state. Ascolti, sindaco, tra l'altro un test sierologico fatto con il contributo di un'azienda del territorio, ho capito bene? Esatto, siamo riusciti ad offrirlo gratuitamente ai nostri concittadini grazie a un'azienda del territorio che ha voluto premiare questo progetto e ha erogato 120.000 euro di contributo all'amministrazione comunale per poter portare avanti l'attività. Che cosa vi dice e vi suggerisce per il futuro, Milesi, questo test? Ma l'altro dato che emerge è che solamente poi, perché avendo eseguito anche a distanza di pochi giorni i positivi al sierologico il tampone, è risultato che il 3% dei cittadini positivi al sierologico è risultato positivo al tampone. Quindi stiamo parlando di pochissimi casi. Un numero molto basso, certo, sì. Nel totale abbiamo sottoposto circa 1.675 persone al sierologico e ad oggi dei tamponi elaborati, che sono circa il 90%, ne sono risultati positivi solo 10 cittadini che attraverso anche il percorso di ATS abbiamo prontamente isolato. Quindi in generale è un dato che lo 0,7% dei cittadini che si sono sottoposti al sierologico è risultato positivo anche al tampone. Vi suggerisce in sostanza che l'onda è passata, pur dovendo mantenere l'attenzione, Milesi, questo dato? Esatto, l'onda è passata, ma l'attenzione va ancora mantenuta. E l'obiettivo dell'amministrazione con questo progetto non era solo quello di far conoscere al cittadino il suo reale stato di salute, se o meno era entrato in contatto con il virus, ma anche quello di capire, attraverso una scheda che è stata compilata in fase di registrazione, in che modo ha colpito per fascia di età, per situazione occupazionale, per anche località del territorio, per poter capire, ci auguriamo di no, però in caso di ritorno di un'ondata in autunno, quali possono essere le migliori contromisure da mettere in campo per poter contrastare la diffusione del virus. La ringrazio, grazie Marco Milesi, sindaco di San Giovanni Bianco, provincia di Bergamo. Francesco, se sei ancora con noi, allora io devo dirti, nel fine settimana ho scoperto, Francesco Specchia, io ho scoperto con una sorta di senso di liberazione che io su questa storia delle statue e non riesco ad avere una posizione precisa, sono sincero, insomma, però una tua battuta sulla statua ai Montanelli... Io sono estremamente di parte, perché come sai nasco da Montanelli, per cui è stato uno dei primi direttori alla Voce, quindi sono montanelliano dentro, quindi non posso non essere di parte. Sì. E tenderei a derubricare questa cosa come un'idiozia, uno schiamazzo ideologico che ha una sua cadenza regolare, perché io ricordo che polemiche sulla statua di Montanelli ci sono sempre state, ormai da quando è stata fatta, da quando sindaco Albertini decise di piantarla ai giardini di Porta Venezia a Milano. Montanelli è stata una leggenda, secondo me, credo che aveva ragione lui quando diceva non fatemi un monumento quando me ne andrò, perché lo disse, sui monumenti ci fanno la cacca i piccioni e molte altre cose. Quindi questo è. Grazie Francesco. Francesco Specchia, firma di Libero, direttore di Pop Economy. Ci ritroviamo tra poco dopo il GR24 con la rassegna stampa con Paolo Mieli, e non dubito che anche con Paolo Mieli un po' di questo parleremo tra poco.